Trainer, l'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Ogni giorno in Italia si muovono migliaia di prodotti preparati e imballati per entrare nel circuito della grande distribuzione. Supermercati, ipermercati, grandi catene rappresentano il punto di approdo di un'ampia filiera che deve essere sempre più efficiente e sempre più sostenibile. Basti pensare che nel 2018 questo settore ha movimentato circa 18 milioni di tonnellate di merce e che dal 2009 a oggi un approccio più green ha permesso di ridurre le emissioni di CO2 di 97.000 tonnellate. Questi i dati emersi nel corso del convegno dal titolo 10 anni di logistica nel largo consumo. Cosa è cambiato? Organizzato a Roma dall'associazione GS1 Italy per fare il punto su presente e futuro del comparto. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. E come avete ascoltato dalla nostra scheda iniziale, ci occupiamo oggi di un tema che in realtà riguarda un po' tutti noi consumatori e tutti i radioascoltatori in questo momento all'ascolto di Radio 24, perché parliamo di largo consumo, cioè di tutto ciò che riguarda la movimentazione delle merci che arrivano ad esempio ai supermercati, agli ipermercati, sugli scaffali dei negozi. Di tutto questo parliamo oggi in compagnia della nostra ospite, che è la dottoressa Silvia Scalia, direttore CRM Training di GS1 Italy. Allora, cominciamo con definire che cos'è GS1, che ha organizzato qualche giorno fa, una decina di giorni fa, un incontro proprio per fare il punto sulla logistica del largo consumo in Italia. Cos'è GS1? È un'associazione senza scopo di lucro a cui aderiscono 35.000 imprese in Italia, operano prevalentemente, come diceva lei, nel settore dei beni di largo consumo. E noi siamo quelli che siamo conosciuti come quelli del codice a barre, ci definiscono. La nostra associazione infatti promuove l'utilizzo e la diffusione degli standard GS1, dove il simbolo più conosciuto è proprio il codice che troviamo su tutti i prodotti nei supermercati. In realtà gli standard sono qualcosa in più di quel simbolo, sono un insieme di chiavi di identificazione e di regole che consentono di rendere efficiente lo scambio delle merci e delle informazioni tra soggetti lungo la filiera. Ecco, lo scambio delle informazioni, credo che questa sia in qualche modo il termine chiave, scambio di informazioni, e in questo senso ci spiega a cosa serve quel codice a barre che troviamo su tutti i prodotti alimentari che acquistiamo nei negozi? Il codice che c'è sulle unità consumatore che noi tutti noi acquistiamo serve innanzitutto per efficientare l'uscita dalle casse, quindi voi tutti noi vediamo che passa su uno scanner e immediatamente le informazioni vanno nella cassa, che è in grado di reperire quelle informazioni, i dati anche di prezzo, e inserirli nel nostro scontrino. È quasi il primo link della storia quello, perché va a pescare delle informazioni poi che stanno nei sistemi della grande distribuzione, a partire da un codice che può essere considerato appunto il primo link nato nella storia del nostro settore. Ecco, però al di là dell'aspetto pratico legato al pagamento, quel codice serve anche a identificare e a tracciare quel prodotto anche per motivi di sicurezza. Assolutamente, la tracciabilità nel nostro settore si basa sui nostri standard, quindi da una combinazione di informazioni che stanno su quel codice legate poi ad un lotto di prodotto e a una serie di registrazioni che stanno in casa dei diversi soggetti che appunto sono coinvolti nella produzione, nel trasporto e nella distribuzione delle merci, fino ai nostri scaffali quando tutti noi andiamo a acquistare i prodotti. Certo, ecco, veniamo proprio alla logistica della distribuzione delle merci, quella logistica che voi seguite con particolare attenzione e che, secondo quanto emerso da un convegno che avete organizzato qualche giorno fa, negli ultimi 10 anni è migliorata sensibilmente ed è anche diventata più green. In che senso? Nel senso che sono stati fatti dei passi avanti rispetto a 10 anni fa, quando abbiamo fatto uno studio simile, tutto analogo, la mappatura dei flussi logistici, la logistica è diventata più efficiente e più sostenibile. E ce lo dicono alcuni numeri che vado un po' a raccontarvi. Intanto è cresciuta la centralizzazione dei flussi verso i centri distributivi della grande distribuzione. Oggi quasi il 90% di quei flussi passano attraverso la rete dei 150 CEDI che sono sul nostro territorio. Questi CEDI hanno la funzione di rendere efficienti i flussi distributivi a valle, quindi di andare a rifornire punti vendita, supermercati e ipermercati. È aumentata la dimensione dell'ordine, quindi questo consente di allestire carichi più efficienti. C'è stato poi un ulteriore aumento dei livelli di saturazione dei mezzi, che viaggiano al 90% carichi quando escono dai magazzini dei produttori. Sono diminuite ad esempio le unità di carico allestite a strati, quelli che vengono definiti pallet sandwich, che sono tanto inefficienti quanto dannosi per l'ambiente, perché di fatto fanno viaggiare tanto legno e tanta aria insieme alle merci. E quindi da qui la stima che abbiamo potuto fare, da questa analisi sul campo molto molto accurata e analitica, abbiamo stimato che in 10 anni, rispetto a 10 anni fa, ogni anno viene risparmiato 97.000 tonnellate di CO2. Questo grazie appunto a una maggiore saturazione dei mezzi, ad unità di carico complete e a riduzione delle emissioni da parte degli automezzi. Ecco, al di là degli aspetti tecnici e della riduzione di CO2 di cui ci parlava prima, questa ottimizzazione dei flussi, quale benefici comporta per il mondo produttivo italiano? Sicuramente diciamo che il risparmio da parte delle aziende è legato innanzitutto all'ottimizzazione, quindi ottimizzare i flussi, ridurre i carichi che viaggiano non completi, tutto questo è risparmio per le imprese. E la notizia felice diciamo è che la sostenibilità e l'efficienza in questo settore, quando parliamo di logistica, vanno di pari passo, nel senso che c'è un connubio felice tra le due, perché meno carburante, meno chilometri con mezzi vuoti, carichi ottimizzati, significa innanzitutto risparmio economico, e che questo le aziende l'hanno capito e stanno lavorando in questa direzione. Lei diceva negli ultimi 10 anni questa logistica è migliorata, ci ha dato anche dei numeri. Quali sono i motivi alla base di questo successo, tra virgolette? Sicuramente la dimensione economica ha un suo peso, la dimensione sostenibilità ha un altro peso rilevante. Il come noi lo osserviamo dal nostro punto d'ingresso, noi lavoriamo insieme alle imprese e mettiamo intorno al tavolo industria e distribuzione a cercare soluzioni efficienti attraverso una pratica che è quella della collaborazione, cioè ricercare insieme soluzioni che non guardano al perimetro della singola azienda ma alla filiera nel suo complesso. Questo perché ci consente di andare ad individuare inefficienze, extra costi, ambiti dove andare a migliorare proprio nello spazio dell'interfaccia, della relazione tra soggetti diversi. Ecco, in quell'ambito si può fare molto e molto è stato fatto. Certo. Ad esempio guardando al riordino, che è una fase diciamo cruciale, perché da lì parte tutta l'efficienza che poi si genera a valle. Certo, ecco, questo è il punto degli ultimi 10 anni, però ci aspettano per il 2025 delle sfide particolarmente importanti, come affrontarle? Sì, intanto quali sono? Partirei dal nominarle. La prima è la digitalizzazione della supply chain, significa efficienza e visibilità a tutte quelle operazioni e quei processi dove tipicamente intervengono più soggetti, quindi produttore, operatore logistico, trasportatore, distributore. Qui serve un linguaggio comune, quindi una modalità per scambiare informazioni andando ad affiancare al flusso fisico delle merci il flusso informativo. E qui gli strumenti sono quelli dell'EDI per lo scambio elettronico dei documenti, messaggi importanti come l'avviso di spedizione, l'avviso di ricezione legati alle merci e ancora diciamo, anagrafiche di prodotto e imballi che siano allineate e sincronizzate tra le parti. Poi c'è il tema della sostenibilità che abbiamo già toccato, è un tema che è entrato in modo prepotente nelle priorità delle persone e delle aziende ed emerge fortemente dalle interviste, come si è vista anche dai manager della logistica, come una sfida importante per il futuro. E la terza parola chiave che ci hanno raccontato è collaborazione, come andare a migliorare e a ulteriormente approfondire il livello della collaborazione con i partner della filiera. Queste sono le sfide che in qualche modo sono state individuate. Certo, e noi ovviamente seguiremo con attenzione l'evoluzione di queste sfide nel tempo, nel corso delle nostre trasmissioni, perché termina qui la puntata di oggi di Container. Noi salutiamo e ringraziamo la nostra ospite, la dottoressa Silvia Scalia, direttore HR and Training di GS1 Italy. L'appuntamento con Container torna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.